una mostruosità e un assassinio. Staccare il sondino che alimenta Eluana e lasciarla morire è una cosa disumana. Questo è il messaggio del Vaticano per bocca del cardinale Barragan, presidente del Pontificio Consiglio per la Salute, ai giudici della Corte di Cassazione in Camera di Consiglio da ieri sul caso Englaro. Devono decidere se accogliere il ricorso della Procura Generale di Milano contro il via libera all'interruzione dell'alimentazione artificiale deciso lo scorso luglio dalla Corte d'Appello. Ricorso inammissibile secondo il procuratore generale della Suprema Corte Domenico Iannelli, che ha chiesto alle sezioni unite di rigettarlo. È il momento di lasciare morire Eluana, come chiede il padre, dice Vittorio Angiolini, legale di Beppino Englaro. L'avviso del procuratore sulle inammissibilità è in linea con quanto anche noi avevamo sostenuto nel controricorso. Bisogna lasciare alla Corte la serenità per prendere questa decisione. Vedremo che cosa decide la Corte, ho fiducia nella Corte. Il verdetto è atteso nei prossimi giorni. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore.